Questa è la parola che fu indirizzata a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda, nell'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè l'anno primo di Nabucodonosor, re di Babilonia. Quella che il profeta Geremia rivolse a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo: dall'anno tredicesimo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino a questo giorno sono 23 anni. La parola del Signore mi fu rivolta, ed io ho parlato a voi sollecitamente e incessantemente, ma non avete ascoltato. Il Signore ha inviato a voi tutti i suoi servi, i profeti, con premura, ma non avete ascoltato, né avete prestato orecchio per ascoltare. Essi dicevano: ritornate ciascuno dalla vostra via malvagia e dalla malvagità delle vostre azioni, e abiterete sulla terra che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri da sempre e per sempre. Non andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi ad essi, e non mi irritate con l'opera delle vostre mani, e non vi danneggerò. Ma non mi avete ascoltato, oracolo del Signore, facendomi indignare a causa dell'opera delle vostre mani, per vostra sventura. Perciò così dice il Signore degli eserciti: siccome non avete ascoltato la mia parola, eccomi, io manderò a prendere tutte le genti del settentrione, oracolo del Signore, cioè Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, e le porterò contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte queste nazioni all'intorno. Li farò anatema e li ridurrò a una desolazione, a uno scherno e rovine perpetue. Io farò cessare da loro la voce di gioia e la voce di letizia, la voce dello sposo e la voce della sposa, il rumore della mola e la luce della lampada. Tutto questo paese sarà una rovina e una desolazione, e quelle nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Compiuti i 70 anni, io visiterò il re di Babilonia e quella nazione, oracolo del Signore, la loro iniquità e il paese dei Caldei, e lo ridurrò a devastazione perpetua. Io dunque adempirò contro quel paese tutte le mie parole che ho pronunciato contro di esso, tutto ciò che è scritto in questo libro e che ha profetizzato Geremia contro tutte le nazioni. Sì, potenti nazioni e re grandi asserviranno anch'esse, e le ripagherò secondo le loro azioni e le opere delle loro mani. Così infatti mi parlò il Signore, Dio d'Israele: prendi dalla mia mano questa coppa di vino del mio sdegno e falla bere a tutte le nazioni alle quali io ti invierò. Esse berranno, vacilleranno e impazziranno di fronte alla spada che io sfodererò in mezzo ad esse. Allora presi la coppa dalla mano del Signore e la feci bere a tutte le nazioni alle quali il Signore mi aveva mandato: Gerusalemme e le città di Giuda, i suoi re e i suoi principi, per ridurli ad una rovina, ad una desolazione, ad un obbrobrio e ad una maledizione, come avviene quest'oggi. Il faraone re di Egitto e i suoi ministri e i suoi principi e tutto il suo popolo, tutta la popolazione mista e tutti i re del paese di Uz e tutti i re del paese dei Filistei, cioè Ascalon e Gaza e Ecron e il resto di Asdod, Edom e Moab e i figli di Ammon, e tutti i re di Tiro e i re di Sidone, e i re dell'isola che è al di là del mare, Dedan e Tema e Buz, e tutte le tempie rasate, tutti i re di Arabia e tutti i re della popolazione mista che abitano nel deserto, tutti i re di Zimri e tutti i re di Elam e tutti i re della Media, tutti i re del settentrione, vicini e lontani, gli uni e gli altri, e tutti i regni che sono sulla superficie della terra. Il re di Sesac verrà dopo di essi. Tu dunque dirai loro: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: bevete, ubriacatevi e vomitate, poi cadete senza più rialzarvi davanti alla spada che io sfodererò in mezzo a voi. Se poi qualcuno rifiuta di prendere la coppa dalla tua mano per bere, allora dirai loro: così dice il Signore degli eserciti, dovete bere. Sì, ecco, contro la città sulla quale è stato invocato il mio nome, io incomincio a portare sventura, e voi resterete impuniti? Non resterete impuniti, poiché la spada io la chiamerò contro tutti gli abitanti del paese. Oracolo del Signore degli eserciti. Quanto a te, dovrai profetizzare loro tutte queste parole. Dirai loro: il Signore dall'alto ruggisce e dall'abitazione sua santa emette la sua voce. Ruggisce minaccioso contro la sua prateria, grida gioiose come i pigiatori emette contro tutti gli abitanti del paese. Giunge lo strepito ai confini della terra, poiché è in causa il Signore contro le nazioni, è in giudizio con ogni uomo. Gli empi li consegnerà alla spada. Oracolo del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: ecco, la sventura si propaga da nazione a nazione, perché un turbine grande si sveglia dalle estremità della terra. In quel giorno gli uccisi del Signore saranno da una estremità all'altra della terra. Non saranno compianti, né saranno raccolti, né saranno seppelliti, ma saranno quale letame sulla superficie della terra. Urlate, pastori, e gridate, ravvoltolatevi, o potenti del gregge, perché son compiuti i giorni per il macello, e per tutto ciò che avete disperso, voi cadrete qual vaso prescelto. È scomparso il rifugio dei pastori e lo scampo per i potenti del gregge. Voce schiamazzante dei pastori e ululato dei potenti del gregge, poiché il Signore sta distruggendo il suo pascolo. Sono sconvolti i prati tranquilli di fronte all'ardente ira del Signore. Ha lasciato come leone la sua tana, perché la loro terra è divenuta una devastazione di fronte all'ardore che è violento, di fronte all'ardore della sua ira.